Sunshine, sunshine reggae. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Don't worry, don't hurry. Take it easy, take it easy, yeah. Sunshine, sunshine, oh, sunshine reggae. Hey, don't worry, don't hurry. Oh, take it easy. Sunshine, oh. Sunshine reggae. Oh. È una variazione soul. Ma sono olandesi la testa. Qua, eh? No? Un po' la testa, no, danesi. No. Laid back, sì. Secondo me è olandesi. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Oh. Oh, sto cercando di capire qualcosa di Twitter, però sono sempre più perplesso. Per forza, Drago, non hai l'età, no, sei come Gigliola 5. Vuoi dire che sono vecchio? Non ho l'età, non ho l'età. Gigliola Cinquetti non è più una ragazzina, no, quello un no. Tu. Ma vuoi dire che alla mia età è inutile cercare di entrare nel mondo di Twitter? Dai, ma scusa, per dirne uno, Beppe Severgnini avrà 10 anni più di me, eppure è sempre lì su Twitter a dire la sua, non è questione di età. Beh, ma Severgnini è uno che ha sempre un'opinione su tutto, infatti in TV lo chiamano quando non esistono esperti di una materia. Cioè lui fa l'esperto a caso. E certo, bisogna parlare, che ne so, degli incidenti sulle strisce pedonali. Mm. Non è che chiamano un vigile urbano, un urbanista o un assessore al traffico, no? Chiamano Severgnini. Perché? Perché in Severgnini si identifica l'uomo medio. Ah. Tu te lo vedi Severgnini che attraversa la strada sulle strisce e viene investito. Cioè, te lo vedi proprio. Me lo forse auguro anche. Però, scusa, si parla di ritorno alla lira, uscita dall'euro. Tra economisti, politici, esperti, spunta Severgnini, che dice che lui ha un barattolo pieno di vecchie lire e che quindi aspetta sereno l'uscita dall'euro. Perché? Te l'ho detto, ma perché Severgnini dà speranza all'uomo medio. Ha sempre quel buon umore leggero che riesce a smorzare la drammaticità di qualsiasi situazione. Dovrebbero mandarlo nelle zone sismiche a rassicurare la popolazione durante le scosse. Te lo vedi, casa che crolla, Severgnini che dice alla famiglia sfollata: non preoccupatevi, la casa la rifarete più bella di prima, anche perché prima non era poi granché, l'ha fatta il geometra, cioè, capito? E a quel punto lo prendono a botte. Beh, speriamo di oppure no. Oppure lo fanno attraversare sulle strisce. Sulle strisce, sì, come speriamo prima. Di no, anche se dobbiamo dire che a volte la tentazione di prenderlo a botte viene anche a me. Anche a te, che sei così pacifico. Certo. Così, quando lo vedi in TV... Sì, lui, Gramellini e Formigli mi fa venire voglia di spaccare lo schermo della TV, in ordine decrescente però. Quindi quello che ti fa venire il nervoso più di tutti i Formigli. Sì, io per lui finirei anche in galera, cioè gli tirerei un souvenir del Colosseo in mezzo alla fronte, proprio così, capito? No. Ecco, lo sapevo. Cos'è questo? Arriva la polizia, che Formigli è uno. Non ho ancora adesso fatto niente, cavoli tuoi. Com'è possibile? Appena espresso ai un desiderio. Ai tempi di Twitter, Drago, basta annunciare una cosa ed è come se l'avessi fatta, tranne quando si suicidano le persone. L'aveva scritto su Twitter, lì non se ne accorge nessuno, ma se uno dice ti spacco la faccia, poi viene subito la polizia, vedi? È Twitter. Would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be better off than you are? Oh, would you rather be a bureau? Chieda asilo! E ora, bambini, ricreazione! Voi, voi due? Bambino Alberto! Ma è vero che venerdì l'asilo chiude? Venerdì è l'ultimo giorno d'asilo. Ma ora io cosa faccio tutto il giorno a casa? Andrai un po' in vacanza, no? A casa. Ma che in vacanza? Mio padre è domiciliare. Ma scusa, ma non era stato assolto da tutto quel discorso? Ma quale assolto? No. Ma va, hanno lasciato andare per un po' e adesso tac, domiciliare. Tutto il giorno a casa, tra l'altro sulle nostre spalle a piangere, a lamentarsi. Vabbè, ci credo, dai, poverino. Non è bello quello che gli è successo? Con la fondazione, i soldi. Ma tra l'altro poi tuo padre, bambino Alberto, è sicuramente una persona onesta, quindi vedrai che tutto si risolverà. Hanno preso un abbaglio quelli della magistratura. Questo è esattamente quello che dice sempre mio padre. Vabbè, giusto. Piange, dice che tutto uno sbaglio, un abbaglio, magari un complotto, e poi la gogna mediatica, sai com'è. Sì. E quindi insomma c'è il padre chiuso in casa e non faranno le solite vacanze estive. Niente da fare. Niente. È una menata, Almeno poi all'asilo. Anche tutto agosto l'asilo me ne stavo lontano da mio padre, no? Tutto lamentoso. Ma vabbè, ma poverino, anche lui. Come poverino? Ma scusa, vieni tu a sopportarlo tutto il giorno, no? Dai. Allora, da lunedì io dovrò passare tutte le mattine con lui sul balcone. Sul balcone? Sì, siccome lui non può uscire di casa. Allora lui sta sul balcone, crede a quell'illusione di libertà. Ah, ho capito. Siete l'uccello che deve. L'uccello che guarda un po' fuori, no? Così appunto gli sembra di non essere in prigione, no? Certo. Quindi si mette sul balcone, in canottiera, bermuda e ciabatte. Ma sì, vabbè. Si siede sullo sdraio E c'ha il cappellino, eh? Vabbè. Sì, se no si viene in isolazione, sta 12 ore. Ma come 12 ore? Tutto il giorno. E se poi lui segue il sole, abbiamo un balcone che gira l'angolo, lui. Dove batte il sole, lui ci va. Ah, ecco. Ah, invece di stare all'ombra. Dall'alba al tramonto. Sì, ma intanto guarda quello che succede giù, no? È curioso come la scimmia. Guarda padre, per strada quello che sì, succede. Poverino. No, nel cortile interno, eh? Ma come nel cortile? No, fuori no. Il nostro balcone è da sul cortile interno. Ah, la finestra sul cortile, Hitchcock. Sì, si è trovato un cortile orrendo, eh? No, tutto grigio, cemento, garage, box, catrame. Poverino, ma cosa c'è da vedere? L'esalazione della pattumiera, c'è cioè una cortile. Cosa impossibile. E lui che cosa guarda nel cortile interno, scusa? Quel poco che c'è da vedere, lui lo commenta, no? Tipo, non so, bambino Alberto, vuoi il brambilla che ha parcheggiato? Ah, vabbè, sì. Anch'io fino alla settimana scorsa potevo parcheggiare lì, adesso non posso più, E piange, è giù caragnato. Vabbè, poverino, vedi. Ma perché uno parcheggia? Poi c'è anche la vecchiaccia che butta giù la pattumiera dal sesto piano. Ma come la butta giù dal sesto piano? Sì, la butta nei bidoni. Tu. Ma come? Sì, quelli nelle case di una volta, c'erano quelle sulle scale. Ah, sì, sì. I buchi, buttava giù tutto. E quindi lui sente il rumore e dice... Lui sente dal balcone. Perché li riconosce tutti dal modo come buttano. Ma allora lo butta anche lui dal balcone. Questa qui è la viga no. Questa qui è la viga no che butta la spazzatura. Vabbè, ma lui può fare. Anch'io fino alla settimana scorsa potevo buttare la spazzatura. Anche adesso, dal balcone si può... Adesso non posso più, è giù a caragnare. Ma perché non può più? Dal balcone può farlo anche lui, no? Allora dal balcone. Mica li buttano al balcone la vecchiaccia. Ma sì, hai detto così un attimo fa. Vedi che sei completamente fuori. No, la dura balcone dai pianerottoli. Può andare sul pianerottolo. Si può andare. Se era da scendere giù, allora non conto. Se no, ma forse anche scendere giù a parcheggiare la macchina. No, non può fare niente. E quindi io mi devo sopportare questo qui tutto il giorno. Sentire della vecchia, del brambilla, e chiagnere, e qui, e la baglia. Chiagnere adesso improvvisamente. Chiagne e fotte. Ma chi? Fotte questo chi? Questo dice mio padre. Quello lì è uno che chiagne e fotte. Io no, io la settimana scorsa anch'io. Adesso chiagno e basta. Non è che devi stare lì tutto il giorno a farti piangere addosso. Prendi, esci, vai in bicicletta, vai a farti un giro. No, non posso. Lui ha detto che io sono il bastone della sua vecchiaia. Vabbè, tua mamma e tuo fratello invece non sono anche loro i bastoni della sua vecchiaia. Ecco, bravo capa, tu me lo capisci. Io capisco. Bravo. Intanto mia mamma si è trovata al lavoro, perché dice, se questo qui ha i domiciliari, i soldi a casa che li porta. Vabbè, giustamente, anche lei, scusami. Sì, giustamente hai ragione. Però poco giustamente chi ci rimette sono io, Ma vabbè, sì, chi ci rimette sono lei, io. Lei tutto il giorno nella palestra di judo, no? Dove va mio fratello. Sì. Quindi il marito depresso lei manco lo vede, capito? No, ma scusa, ma chi è che fa judo? Non ho capito niente. No, mio fratello fa judo. Mia mamma adesso ha trovato un lavoro come contabile. Nella palestra di judo dove va mio fratello. Ma già no? Che a tua madre piace il judo, cioè piace il maestro di judo, no? No, cos'è che ha detto? No, niente. Comunque, alla fine mia mamma lavora. Mio fratello deve preparare un esame dell'elementare, deve studiare come un pazzo. Quell'esame è quello che vuoi umami, no? Invalsi. Invalsi. Sì, quindi con sta scusa del fantomatico esame, sta tutto il giorno chiuso in cameretta con il PC acceso. Ma oggi si studia col PC. Bambino Alberto. Sembra che i ragazzi perdano tempo, Drago, ma in realtà stanno studiando col PC. Sì. Di sicuro non mio fratello. Lui sta sul fantacalcio tutto il giorno. Tutto il giorno, vabbè. Scommette. Ma quando esce dalla stanza? Per mangiare la tartina. Sì. Ha gli occhi tutti rossi, non capisce niente. Vabbè, perché il fantacalcio fa venire ciechi, si sa. Gli occhi rossi, come no? Fa venire ciechi, come no? Fa diventare ciechi, come si dice. Cioè, allora voi mi state confermando che siamo gli ultimi qui all'asilo. Cioè, siamo vicini alla fine. This is the end. Sì. Questo, come dice Giannino. Sì, Giannino, bravo. My only friend. Sì. Comunque, dai, non essere triste, che tu fai compagnia comunque al tuo papà, che pensa quanto sei importante tu per lui in questo momento. Perché? No, niente, Drago, da bambini certe cose non si capiscono, nemmeno si apprezzano. Forse hai ragione tu, bisogna stare... Scusate, allora, non è che voi poteste fare un po' di volontariato sociale? E venire sul balcone a far compagnia a mio papà? Ma come? Intanto io nel frattempo vado con Gido ai giardinetti, no? Poi andiamo su dalla signora Mifia. No, vabbè, per io non posso. Dai, io non ci sono. Io vado via tutto luglio, poi torno ad agosto, però non so se sono a Milano. Io ho dei traslochi a fare. Guarda, la campana, Alberto, devi andare. Ma una volta. Ma cos'è tutta sta fretta? Tutta l'estate a casa con mio padre, anch'io in canottiera, bermuda, ciabatte, anguria, cappellino per insolazione, e alla fine, sai cosa ti dico? Mica male, piuttosto che andare in colonia.